sono svanite, sono... Se non vogliamo rimettere in atto... A me va bene, ma non sempre con le motivo a me va bene, perché dai valore a questi apparati, giustamente, deve essere un mondo a sé, quando la metti di modulare, a me andrebbe troppo riuso, sinceramente. Questa veramente si chiama Vassallino. Certamente che modera da uno o tante altre persone. E mettete un giorno, beh, io e già stiamo a fare mia azione, noi siamo tutti qua e molto noi ci ascoltiamo. Allora, praticamente questo non si può fare perché magari entra uno di colpo, vuole entrare, tu stai facendo. Ma poi non me la sento di fare l'inizio da nessuno. Diciamo che io posso solo riportare ciò che ho vissuto, che era le cose del canale, le cose degli altri tinti. C'era un capofotta che addirittura molte volte si doveva mettere il quaderno davanti e scriversi tutti i nomi e depennare man mano che li faceva girare. Perché? Perché le ruote erano grandissime, non erano come quelle di adesso, c'erano 30-40 persone, dipende. A lì ti fa piacere lavorare alla fine, devi abituarti a nuove regole alla fine, ce l'abbiamo ogni giorno quando siamo fuori da casa, per dire, io non voglio esagerare parlando così, mi piacerebbe dare un valore anche a questa cosa, e non si possono andare neanche qua dai dici, perché no? Poi giustamente alla fine funziona nel rispetto delle persone, non è che poi stiamo facendo chissà che cosa. Gianni, allora, quel discorso che hai fatto tu, diciamo, non fa una grinza, però, diciamo, secondo me dovrebbe essere anche tra chi sta modulando lasciare quei piccoli frazioni di secondi, non dico minuti o così via, ma frazioni di secondi, diciamo, di bianco. Perché per una volta succede che uno si sovramodula con l'altro per non lasciare un attimino di bianco, poi schiaccia subito quando uno ha mollato, quando parte molte volte è capitato che c'è stato break e non si sente, ma questo dipende da ognuno di noi, lasciare quel piccolo spazio tra uno e l'altro. Ma poi, sì, bisognerebbe mettere in atto, perché lo diciamo tante volte, poi magari non si mette in atto. Bisognerebbe mettersi in testa di mettere in atto tutto. Quando uno finisce di parlare, prima di riprendere, si lascia un piccolo bianco e via. Esatto, capito. Diventa una cosa più allineata, una cosa più pulita e così via, cioè senza stare lì per dire regola contro regola. Vabbè, adesso se torniamo ai vecchi tempi, non so se ti ricordi, Casotto c'era anche prima, anzi adesso la 27 è abbastanza rilassata perché siamo a quei pochi, diciamo, se ci mettiamo a fare i conti in quelli che siamo, in proporzione a anni addietro, insomma adesso è più rilassata, più tranquilla. Beh, appare registrato Beck. Io parlo delle persone educate che c'erano, perché io frequentavo in certi tipi di canali, certo che non ci trovo nemmeno, non mi piaceva neanche entrarci. Io parlo sempre delle persone educate che erano sempre rigorose e rispettose nei confronti di tutti. Avanti il break. Io, ciao. Beh, trovato il microfono. Eccolo qua. Ah, meglio così, sono contento, va. Sono contento veramente. tu. Benissimo, la verità benissimo. E questo mi si addice, e questo è il microfono che mi si addice a me. E ce l'ho visto. Già va bene comunque, ciao Alessia. Ehi, ciao Ale. Una patata sulla spalla destra, vai. Bella scocciato. Va bene. Cosa che vi voglio dire, ieri mi chiedeva Pollicina di parlare appunto di questa cena, se l'avevamo fatta, se dovevamo organizzarla. Io gli ho fatto la battuta, non l'abbiamo ancora fatta, cioè, come mai? Perché stavamo aspettando che ci dessi l'adesione anche tutti, e lui va, è tutto pronti, e se non mi invitate però l'adesione non ve la posso dare. E gli ho detto, vieni anche tu, non c'è nessun problema. Dice, quando è che l'ha fatta? Io gli ho detto che ancora non avevamo deciso nulla, però il prossimo sabato, se vogliamo farla, non questo ma l'altro, se lo fa... Io per esempio questo sabato, il prossimo ancora, ho avuto già due programmi un poco di tempo. No, questo sono impegnato anche io perché c'ho un matrimonio e quindi non posso mancare perché mia nipote, quindi non posso mancare, però io dal prossimo potrei essere libero. Purtroppo questo qui, diciamo, quel periodo di crisi, di comunioni, eccetera, eccetera, beh, affidarsi a affida di sé. Certo, e anche io c'è la crisi, ma di Giovanna, con la figlia, quindi niente da fare questa settimana. La prossima di chi è di Giovanna o della figlia? La figlia di Giovanna, è logica la cosa, no? Fate la sua. Non è che fa qua. Ah, della figlia. È possibile che non si cresce neanche da grande, non è niente di strano. Lo so. Non faccio oggi quello che ha mossicato. Il pantalone ce lo stavo io. Pagato. Avanti, Antonello, puoi far girare. Scusatemi, 00 perché tutta gente ha cercato mio fratello, che è andato a farmi visita, va bene, ci sentiamo le prossime in casa romani, dai, vi chiedo scusa, dai, ci sentiamo romani, buona serata a tutti. Figurati, ciao Antone, ci sentiamo, avanti Alessandro. Ok, ciao Antone, buon tutto, ci sentiamo alle prossime. Ok signori, io ne approfitto, vi saluto circolarmente, e c'è una bestiolina qua, mi ha messo il muso sopra il ginocchio, e lui quando mette il muso sopra il ginocchio vuol dire che vuole uscire. Allora, ciao a tutti i circolari. Ciao, ciao Alessia, ci sentiamo, buona passeggiata, salutami anche con la signorina che ci è vicino. Anche Alessio. Dice cosa fa, mio, quando mette il muso fuori, morto. Ultimamente se non ho copiato bene, devo darmi. Senti. Aspetta un attimino, ho fatto il saluto circolare, ancora non era stato. È copiato ultimamente, Gianni. Tutto bello, Alessio. Alessio è entrato. Ciao, che saluto, mi hai sentito? Non proprio mi sentito, c'è un po' di QRM, diciamo, di propagazioni oggi, dove stanno facendo vaccinare la testa. È vero? Ma questo è un po' di cielo, Olga. Sì, che ci sono scelte. Ma stato anche il sabato a accompagnarti a Pellegrini, ha fatto tutta la notte in servizio. Ecco, capito, la passeggiata, dai, la camminata da salta. E poi si è sceso anche il giorno dopo. La settimana di ieri, vera? Si è sceso il giorno dopo con mia moglie e una coppia di amici. Quando ti sei aumentato i papiri di pancale, devi fare la domanda e me ne metto in casa a fare il soccorso a questo. Ma tu proprio, perché... Chirusane, questo di suo servizio, si intende mai più davanti a me. A fare quello che hanno investito quella volta, ui. Adesso la Budi, un sabato, stavo parlando con loro, sarei da Porto Torres. Ho visto questo qua, volato. Dalla corsia all'altra l'ha pigliato, stava. Saranno grazie che fare calami per due paesi corri. No, non aggiudica la vita. La tirighetta va. Usciata. E anni chi è tutto di chi? E anni che dà, è tutto di ghiaccio. Davvero? Vabbè, perché giro molto. Chi viaggia in macchina le vede. Ecco le due che sono trapportate davanti a me. Tu non vedi, gli sono Giampaolo. Dopo vero, e aggiungavano dalla macchina, non ti ho raccontato, lo sulla Budi proprio al Marruccio con la vena del sole. Che ne può vedere lo paracchino là lì? Fatto, tu me ne puoi vedere, bisogna aggiungersi il campo a te. Veramente, veramente, le fa vedere lo paracchino, poi si è andato e le ha fatto lo soccorso. Abbiamo fatto uscire una, è uscita dal posto di guida, l'altra abbiamo passato a sedere, abbiamo aperto il cofano di dietro e abbiamo fatto uscire da dietro. Quello senza quello di dubbio, se non hai nozioni di queste cose qua, non devi mai toccare, devi sapere come prenderli, se toglierli in quel momento, se non toglierli, se la macchina, per dire, bisogna di rubo, cosa fai, accidente, preferisci romperli magari, continuare a fatturarli una cosa che si è già fratturata, ma tanto diffuso, non vai a cliccare quella macchina. Insomma, il dubbio è quello sempre, come la prima cosa fai, tu puoi chiamare soccorso, subito, chiamare soccorso, di gente competente, dopo il due, come si fa, di tutti i diritti, poi fa. Quello sì. E naturalmente se sei solo, a me è capitato che c'era un medico e abbiamo lavorato insieme, ma se sei solo ti viene anche più difficile, specialmente se sono tante persone. Una volta che eravamo a Stato, quelli di Santa sono stati aggiuditi. no, mi ha ascoltato chi sono i disturbi, ma mi cavo di questa cosa. No, ma no, cioè, fermo gira a fuoco, se no non lo no, va a vedere che è rimasto, che tu li senti di più da dalla parte tua. Che è rimasto, va, va, va, si sono veloce adesso. Alizio, ma è Alizio. Luca fa cucù e poi fa sempre così, si fa cucù e basta. Avanti Alessio, Alessio, Alessio, sì, sì. Certo. Per la 1, tu sì. Non rispondi se sei in pelle. Paga. Aspetta a vedere se c'è Alessio, Alessio. Questo sta qua al televisore, Alessio. Sta pagando. Per vedere, una volta stavo tornando dal mare. Come ho detto, invece che la voce adesso passo dalla seduta 31, il San Marco, il San Vigiunto, passo sempre la San Marco, poi siamo passati dalla seduta 31, arriviamo al semaforo di ottava, mi fermo, la macchina si ferma dietro di me, perché c'era il rosso. Al stesso punto arriva il sessonto, boh, in alta di questa macchina che verrà da me, diciamo che è un bambino piccolino dietro, cazzo, questa questa moto volando, si è fatta tutta a piedi la moto, ha giocato il tempo per far verificare il vicino, me l'ho caricato sulle spalle e l'ho tolto dalla strada, perché sennò aveva ricaricato, sono passate delle macchine e guardate, ma qui sulla via. Ma che c'è la giusto di pipa, non c'è no, era cotto, il fratello prima l'ha preso, lo voleva accompagnare lui a casa, me l'ha detto dopo, e già li conosci più, tu. Era cosa da casa, no? Poi accetto l'ha fatto sedere in moto, le si era stampata sui due russi. Era arrivato due la romante si è morto, si è fatto male veramente, è stato ricoverato in ospedale, operato, urgenza, eccetera, eccetera. Io quando è arrivato all'ottoressa del 118 subito glielo ho detto. Detto, per me è una lesione interna, oltre un coma etilico, c'è una lesione interna perché da come l'ho visto, lui si è capitato subito da luce. Cosa ho già lo so, si dice ancora, tu sicuramente lo conosci, senza lo sentiti. Chiamo tu era? Lo scooter era, uno scooter che non era, ma questo è stato situazione. Ah, ricordo questa cosa? La ricordi? Così che ti ricordi, cioè questo scusa lì c'è, non me l'ha assicurato. Cos'è, sarà vero? Beh, lì sì, Dove l'ho prestato, non era lui il padrone. Ha pagato, e io abbiamo. E oggi, non vedi, capito, perché quando oggi come si può sottraggere per andare a lavorare, c'è poco da fare. Le vedi sicuro. Guarda, ho visto un incidente che mi ha tutto lasciato impresso, anche se è il tuo servizio che faccio io, non ve l'ho dato. Ma ne ho visto in particolare un Kawasaki dentro una macchina, tutto sfondato, lo sportello entrato dentro. È successo, ma un bel di anni fa, al bivio che va dalla Budibudi verso Plattavola. Mirabile come c'è una rotonda, si trova mai. Come ti basta, gli si fa la rasata, presta la vera precedenza, decidi di tranquilli, questa lì c'è una rotonda, dice, ma non è una rotonda, la mia come c'è una rotonda, chi gli si ferma, chi si piazza la porta, ma si ferma, ma non è giusto, perché la precedenza sempre si dà a destra, e la devi dare a chi viene la proviene da destra, non è che tu pigli e passi e andi dritti. Se hai visto l'incidente anche se ci puoi avere ragione e poi dalla ragione ci può passare anche al torto perché gira che io vi giro da voi ti dire ma lì forse stava correndo ma qua ma là sai come sto no? No, non è tanto il discorso quello non è tanto della ragione al torto a parte che potrebbero sempre quando si rompono le macchine le cose tanto quanto il peggio è se appunto uno si fa male ma anche nella migliore delle ipotesi, anche avendo ragione, si fascia della macchina e si appeli, sempre così, sempre da remittivi vai. Poi tutte le ragioni di voi, ma vai sempre da remittivi. Da voi, tagli pure l'avvocato, devi fare, perché secondo te non ti vuole pagare, dice che ci vuoi far per cento. Ma se la situazione deve fare così, 50% del colpo, via, ognuno si paga di su. stato un casino, riuscire a cassare assicurazione. Cazzo di denaro, arrivo, ne cassa, poi cazzo si tratta, non vuole pagare. Ma allora pace, mi sono liberato per i torti. Tutti i cani, per i camuffi, cani pigliato. Quello che ti stavo dicendo io me l'ho preso la bocca, la parola. C'è gente che ci giostra, ci vive da queste cose. Io conosco gente che ci giostra, però ci sono dei camici. Ci guardano. Tutta la strada, infatti praticamente l'hanno denunciato perché ha lasciato l'olio nella sera col pericolo che si è ammazzato con il dirigente. Vedo comunque non se n'era pesato. Non se n'era pesata perché la sponda come ha rotto il coso se n'è scesa. Non aveva più olio. Ha passato un altro scattoio, ma fa prima. Ma dico io, tutti possiamo fare una cosa del genere, perché magari per far prima cosa, anche se lui c'ha un itinerario che doveva seguire e basta, punto, lo possono cambiare in caso ci siano interruzioni di strada, o per lavori, o per incidente, qualcosa, allora è autorizzato a cambiare, ma in quel momento lì non ce n'erano, capito? Era di Alghero questo autista qua. E mi pare che si era pure mandato, perché hanno scoperto che ha cambiato itinerario, non perché ha avuto l'incidente o cosa, o perché ha cambiato l'itinerario che non doveva fare affatto. Forse specifiche per determinati tipi di attività, insomma, si fanno determinate cose, traiettorie, strade, che richiedono percorsi, mappe, le mappe, no? Però dicevo, per un lavoro che fai, quello fa tantissimo, no? C'è uno che lascia. Quando c'è un giro di clientela, no? Devo fare un giro di c'è le bolle, noi per esempio facciamo così a Roma, ma c'è le bolle, ce le mettevamo a giro, sapevamo anche determinate abitudini di qualche cliente che lo trovavamo magari, questo lo possiamo anche fare per esempio a ultimo, perché tanto è lui padrono, sta di sopra i chivi, a Gauro Alemmo, quello si chiama Zaccio, per sempre ci misuremmo e tu fare a Redemmo, no? E se abbiamo prima magari chiedi che dopo ci dovevamo farli, se risultaremo di pure di sera. E così che il itinerario se lo facciamo noi, non è una cosa scritta. No, ma quella vittoria è molto tassativa, hanno proprio l'itinerario, li devi mettersi in giro quando finisco di scaricare, tutto qua. Allora facciamo solo pochi scarichi, tipo corrieri? No, proprio scarichi grossi, con tre assi. Scarichi grossi, allora sono solamente uno, perché è un piatto e non basta, ho capito. Tipo i corrieri, come quando facevo lavoro anche la Bartolino, sia ho lavorato anche in cooperativa dentro l'impianto a scaricare, a fare quelle cose, dopo ci ho lavorato anche come guardia e via dicendo, no? Arrivavano con i sigilli, c'era il capo reparto, controllava che il sigillo era integro, tagliava con la cesuria, si apriva l'ambrete, si caricava, si portavano i colli, tutte le cose. Eh sì, io ho lavorato all'Artemi, invece che da Bartolini all'Artemi. La sigilla è solo lì già. Che diavolo. Arrivò pure, alla carne non le va a vedere, ma... Non le va a vedere, ma si vede. Beh, comunque abbiamo fatto esperienze qualche una lunga, qualcuno anche a breve, perché magari veniva il lavoro. Ciao, buonanotte, antenauto. Ciao, io non lo sento però. Cosa? Ma cosa ti stavo dicendo? Comunque c'è bello fare diversi tipi di lavoro, perché almeno ti rendi conto qual è quello che ti si agisce di più. No, sai, no, no. vero che sempre da imparare, però ci sono determinati mestieri che si imparano, l'artigiano in sé, che dopo può essere come il falegname, può essere il muratore, il carpentiere, il meccanico, il carrozziere e via dicendo, tutti questi mestieri che sono così, sono mestieri che non puoi apprendere a 40 anni, a parte il fatto che alle che devo appigliare una pastola di un'età e magari può farmi a carico, appigliarla come apprendista, così già ricorda una cosa. No, però ci sono questi lavori così di manovalanza, e macchinati, non hanno le tasche, devi essere un pochettino inquadrato, ma anche se lì ci sono anche delle cose che devi, c'è un criterio di lavoro, non è il discorso di sì, e gli scippati le piglia meno che le buoni gusti, ma vedo le spuntature, vedo gli scippati che sono, che devi riparci prima, vedo, insomma anche lì dopo il tipo di lavoro lo assimili e lo impari, però è molto più relativo come altri mestieri, capito? Ci sono lavori e lavori. Io poi avevo mio padre che era artigiano e molte volte me l'avevo quindi da me che poi di questo sono mai a te. Ma io non ne ho mai voluto sapere, mi vergognavo un po' là. Io lo so cosa dicevo da piccolo, volevo fare l'ingegnere di pompe funebri. E tutti mi dicevano, ma lei non è sbagliato, lui ci guadagna sempre. E io lo vedo già, lo fanno a te, e lo paure, e un mestiere non fallisce mai. E solo che ero un po' macabro, disegnavo carri funebri da piccolo. Comunque vera che questa cosa, tu secondo me, Gian, sei un poco pushato da queste cose, pure che ti succede, secondo me è qualche cosa, un'indole. No, io sono compulsa a salvare la gente, non ammazzarla, a fare il funerale. No, vabbè, ma nel contesto, cioè, si avvicina anche come cosa, no? Deve essere che avevi questa attratto, ecco. Ti attratto da quello, non capisco il perché, però, non riesco a capirlo. Gianni, ognuno ha una sua tendenza, ecco, che ha tante cose già, di subito, durata, cosa, vabbè. Comunque l'importante è che le cose dopo finiscono sempre a lieto fine. Tu devi dire, io voglio fare il dottore, l'altro impiegato, l'altro salumiere, l'altro questo. Io, ingegnere di pompe funebri, io sono sbagliato la bocca a bici. Cosa l'ingegnere di pompe funebri? Cos'è? È un mestiere, è un titolo che esiste? Oppure tu volevi dire solamente che tu che porca di morte? Oppure che va all'agenzia? Oh, scusa, però l'ingegnere, volevo dire, impresario di pompe funebri, non ingegnere, scusa, sbagliato. Che fatti che l'ingegneria che non penso che venisse già che vi già proprio un tavolo di ingegneri, da più quando non entra nelle dronca nei cacche rosso e ti rincascia. Io cazzo, mamma mia, mi tremo le chiusure pure che se così succede. Succede, cazzo succede, ha raccontato un muro, ma ha raccontato un muro merante. Mamma mia, un caccuraggio, grazie. Non cane usci, non male. È quello che pare che mi ha dato tutti i fuori, allora, per non vedere. Un bellissimo fatto. Sarò qui, lo sciogamo, No, io no, io mi ha cazzo. Ah, ma cosa? No. Io, voglio già. È poche voci pure, ma qualche voce ha domandato a vedere. Dobbiamo credere che conosci io, che ti viene chi ti dà in tuo costico grande, con un vero, fammi tornare a grotte, se e se no, secondo come te stessi che così così, riesco solamente ad andare per un funerale, ma loro paura che sono nato. È normale, ma in questi casi non ti voglio manco vedere, i salarieri, non li voglio vedere nessuno. Allora, Gesù Turner, cosa in plastica e ne prese di già un metallo. Plastica è praticamente i contorni, il contorno del microfono, quello lì in alluminio, la parte di sotto in alluminio, laterale l'alluminio, per essere plastica di vita, per luce celeste. Ma è cos'è regolabile il gambo dove c'è la cassola o di quelli più piccoli? Visto parecchie volte da CD anziani. Io se dovesse funzionato bene alla mia voce avrei restaurato tutto. Come visto funziona, però la mia pignoleria mi dice che magari i fili sono già marci, a fine di ieri si fa interessare come si stecca la plastica e cosa all'interno, ma io faccio i collegamenti con i fili nuovi. Praticamente ha bisogno di una rinunciata, ma se lo vuoi fare, se no puoi anche lasciarmi così. Sentiamo qualche minuto prima, sentiamo un bel discorso. si tengono e vanno. Mi piace la signora che va dal cucchiaio piccolino, non si è conosciuto. Vai, vai, vai, non ci sono problemi. Attenzione, Gianluca, mi senti? Chi è entrato? Non ho capito già. Entrato cazzo, Bobone Billo. E dove è che sta modulato? Sta al modulo in questo momento, eh? Cazzo, non lo sento, proprio negativo per me. Non ti ascolta, ti devo uscire. Dani, io non li sento, Gianni, se tu mi ascolti non li ascolto, sentivo un attimo quello di Porto Torres, è tutto negativo, capo. Aspetta, adesso ho contato un bel po' forte, ho contato bene il segnale anche del radio 5x5, va benissimo, Grillo, mi senti adesso? No, lo ascolti. Ti ascolta, che sì, sono anche forte. È copiato. Ehi, a te ti gonfio, purtroppo c'è una piccola segretaria che va bene, cap. Cazzo, ma mi sento a gusto, no, che radio zicco. Allora, come fa a non sentirmi a me? Provo a vedere, anche se ho 4 watt. Vedi, vedi, ma devi forse a me, Gianni, ma forse a me, E a me arriva bene. E mi dico, non scherzo. Poi la panza, Giuseppe, ma quello che è entrato adesso è Billo, no? Attenzione Billo, se mi vai copiando cambio. No, non mi copia deve essere, ma è mia, è BM oppure stazione fissa, è già? BM. Perché c'erano dei punti che non riuscivo a copiare, ma adesso proprio zero. Ma insomma, insomma, ma dura quella zona lì, per noi almeno dovrebbe essere un po' zona negativa, a meno che non c'hai dei aggettivi, allora scappate. Ma chi c'era oggi? Antonello da Rossi. Poi è arrivato San Pedro e c'è la... Ah, ho capito, ho capito. È un casino. Io ti saluto, passo. Ciao, Benigno, buonanotte. E buona giornata per domani. Allora, saluta la volta. Saluta il vicino e quello di Porto Torres che io voglio sentire. Già mi ascolta quando sono nell'altra posizione, dire già lo sa, che ci siamo salutati e ci parliamo sempre su 45. Ragazzi, io vi saluto tutta la notte, a domani.